BFD Production presenta. Un prodotto ideato e condotto da Frego, Diego e Dennis. Musica, informazione, curiosità e molto di più. E60, l'informazione divertita. Ciao amici, benvenuti su Radio Sandonà! Ciao ragazzi! Siamo qui a 360! Benvenuti a tutti! La frequenza è 102-200, sentite la folla! Signori, solo questa sera in diretta per voi, Bruce Springsteen! Time. Buona giornata a tutti e benvenuti qui su Radio Sandonà 102-200, direttamente dallo stadio qui, perché oggi c'è appunto il concerto di Bruce Springsteen di fronte a me. Sbagli tu. No, di fronte a me, niente, io non posso assolutamente parlare perché sei scoordinato completamente. Salve, buongiorno Dennis. Prego. Tutto buongiorno, bene, benissimo. Io non lo sopporto più, Diego. Non sopporto più neanche me stesso. Appena cominciato così, non ci sopportiamo più. Buongiorno cari amici e benvenuti a 360, l'informazione divertita, nuovo appuntamento con noi qui su Radio Sandonà, la frequenza 102-200. E adesso passo alla presentazione naturalmente dei due contendenti al titolo. Alla nostra destra, all'angolo destro, abbiamo il campione della regia, l'unico, l'incontrastato, il favorito, il Sacra Petro Cabroco. Prego! Yes, yes, good evening, good evening, good evening all together a tutti quanti. Ma soprattutto io non voglio presentarlo tu, quello che sta qui davanti a me, perché a me mi sta qui. Ah, fra poco gli sputi in faccia, praticamente, ecco. All'angolo sinistro, il pretendente al titolo, il più, come posso dire, il più, beh, non so, non mi viene niente da dire. Il più rompicoglioni del genere urbano, eccolo, signori e signori, eccolo, è lui. Signori e signori, Diego! Bravo. Non lo vedo. È talmente ringoglionito che non si trova manco lui. Ah, io, ehi, è bello, siamo qui. Ciao, da posto. Ben ritrovati qui a Radio Sandonà. Grazie alle mie due croci, perché ormai, come ho già detto, questo studio è diventato un vero e proprio cimitero. Direi che puoi dare le coordinate. Vai. Sì, dove scovarci? Noi siamo su Radio Sandonà, la frequenza è 102.200, il numero di telefono è 0421 560993, il 4 finale per il fax. Potete ascoltarci in web radio su www.radiosandona.it, oppure se volete mandarci un'email mandatela al dfd360@yahoo.it, per gli sms 348 41 62 771, e Facebook dfd team 360 in parole. In parole, yes. If a man could be his own fantasy, that's the only breed of captivity is pointless. I've been doing what I like, when I like, how I like, it's joyless. Only you know. Steps into my sleeves till I get to say sorry. I get hysterical. So if love is just chemicals, give us something to stop me. Only questa bellissima canzone di Robbie Williams con You Know Me. Ma è bellissima, però io devo dire una cosa, Diego, mi stai toccando troppe volte quando arrivano questi lentini, sai? Non puoi toccarmi sempre, eh? No, sei tu che fai ammicamenti, allora... No, Mi stuzzichi. Guarda, you are a pig. Sei un maiale. Sei, ma stai sempre a toccare con ste mani. Che tocchi con ste mani? Ma cosa fai sempre? A toccare. Conta, basta. Io avrei una notizia qui nuovissima. Avanti. Siamo nelle notizie dell'ultima ora. Sì, esattamente sì. È arrivato solo per voi stasera Nano Nuno. Nano Nuno. Sono io, Nano Nuno. Sono uno e sono un nano. Esatto. Eccomi qua. No, invece no, sarebbe l'ombrello di Dennis. Anche dopo un diluvio basterà scuoterlo lievemente per farlo tornare asciutto. Ah, fantastico. E questa è la nuova sorprendente caratteristica di Nano Nuno di Dennis, l'innovativo ombrello lanciato dalla società tedesca Proide. Ma ha fatto male a qualcuno quando l'ha lanciato? Classico ed elegante, ha il manico di legno e un meccanismo di apertura automatica, aperto a un diametro di 92 cm e aste a costole sono realizzate in alluminio e fibre di vetro, un modo da sostenere anche i temporali più forti. Alluminio e fibre di vetro, cioè quanto costa? Cioè un 500 euro per un ombrello? Ma c'ha il telaio in piombo. In piombo? E dove lo possiamo comprare? Lo potete comprare da... Non possiamo... Non possiamo fare domande a Diego. Al di fuori di quello che legge. Allora, diciamo, tecniche. Diciamo agli amici ascoltatori che se mandano degli sms di non fare domande a Diego, esatto, perché non è in grado di rispondere. Non ce la fa. Cioè, è arrivata la nube del vulcano, quello islandese, e non è arrivata dopo un po' di tempo, perché come sempre Diego arriva in ritardo sulle cose, pure le cose arrivano in ritardo a lui. Esatto. E quindi non possiamo... Non ho seguito. Niente, dai. Ecco. Per esempio, quello che stiamo dicendo noi oggi, lui lo capirà fra un paio di settimane, quindi fra un paio di settimane potrete sentire la risposta che ha da darci. Ah, avevi ragione, là per lo spec che dicevi due settimane fa. Esatto, per lo spec. Ma che parlare in tedesca, davvero? In tedesca, gli ha il pene rotto e tutte queste cose qui. È ora di finire. Don't you worry about a thing, mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag, that you must go other places, but just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Don't you worry. arrivato il primo messaggio qui su Radio Sandonà 102.200 La Frequenza. Il primo messaggio intestato al DF di Team Dennis. Vuoi dire te che cosa ci hanno detto i nostri amici a casa? È arrivato l'arrotino. No, non era questo. No, è arrivato l'arrotino. La rota coltelli affila ombrelli. Donne, accorrete tutte. È arrivato l'arrotino. È l'ombrellaio. Giusto, Nuno, giusto. No, non uno. Allora ci scrive Eli, dice: ciao DFD, sono Eli, siete fortissimi, ma che vi fumate prima di andare in onda? Ma giustamente, ma un'ottima domanda. In che senso? No, nel senso, cioè, allora, noi ci fumiamo un misto di paglierino, paglie e fieno. Ma non dagli la ricetta, perché sai un po'... No, vabbè, ma non le dico dove la troviamo, dove viene coltivato tutto quanto. No, ragazzi, no, seriamente. No, beh, a parte gli scherzi. Non fumate le canne fatte con la paglia. Seriamente, ma soprattutto non state vicini a Diego, soprattutto quando non si le pulisce le ascelle. Perché questo è anche l'effetto che ci fate a me, Dennis, perché... Se avete delle allucinazioni e non ve ne rendete conto e non sapete spiegarvi il motivo, è la presenza di Diego. Comunque ringraziamo, naturalmente un saluto, un abbraccione a Eli. Non c'ha scritto, ecco, la prossima volta Eli, la prossima volta dici da dove scrivi. Esattamente. Soprattutto dacci, così ti mandiamo Diego, dacci tutte le coordinate e così ti veniamo a trovare. Ricordiamo naturalmente che il numero di SMS è 348 416 2771. Mi raccomando, ecco. Qui abbiamo una bellissima notizia che arriva direttamente da Dubai. Allora, presente tipo quando sei stanco di una cosa, io che Dubai, però. Bello, a casa. No, dai, era a bello. A casa. Dai, dai. Silenzio. È stato lanciato a Dubai un progetto per la costruzione di un grattacielo la cui forma ricorda la sagoma di un beduino. Sappiamo subito che questa notizia l'ha presa Dennis, perché lui grattacielo non riuscirebbe esatto. Mai non ci arriva neanche. È un beduino. No, e poi ho paura oltretutto nei grattacieli per l'altezza, per le cose, salire esatto. Negli ascensori, tipo quando ero a Parigi sono salito nell'ascensore e mi sono aggrappato sì. Alle maniglie perché avevo esatto. Paura, in realtà non tu sei abituato niente. A vagare per il deserto esatto sì sì in esatto, solitaria sì. Così sì, in sì, tuare sì. E riesco no io riesco anche a resistere 40 giorni senza bere addirittura. Puh. Un cammello esatto sputi come un cammello. Vai, dici la notizia, secondo vai. Quanto riferisce la stampa locale, contro l'iniziativa si è schierata la comunità musulmana ortodossa, che considera la Arab Tower del costo di 136 milioni di dollari una violazione del precetto islamico che proibisce rappresentazioni di sembianze umane. La parte più moderata di popolazione sostiene invece che grattacielo alto 140 metri sia iniziativa commerciale che si ispira alle tradizioni e alla cultura di una tribù nomadi di deserto. Il progetto dell'edificio di 35 piani sarà mica tanto. No, 35 piani. Adesso ne ha fatta una di un chilometro di altezza. Beh, almeno Obama sarà contento così ha da lavorare. Esatto. Ma perché? Scusa, Abraham, adesso spiega. Adesso ci dai. Obama. Nota politica. Adesso mi è venuto interveniamo con la politica. Dai, Diego, spiega. Grattacielo e Obama. Grattacielo e Obama. Stanno bene. Grattacielo e Obama. Sei simpatico, sei simpatico. Dopo facciamo... Veramente penosa questa battuta. Veramente sì, penosa. Sì, dai, facciamogli ascoltare un po' di sana musica, che sì. Diego di questi è pazzo. E allora glieli mettiamo e gliela dedico a lui. Evviva Diego. Evviva Diego. Grazie Diego. Grazie di non esserci. Something's always near. Ciao ragazzi, ciao belli ragazzuoli, come va? Tutto bene. Bene? Dai, benvenuti, ben ritrovati a questa bellissima trasmissione che è 360. Ecco, ben ritornati qui su Radio Sandonà. Ecco, non chiedetemi perché parlo così. Perché? Parlo così perché? Perché, come naturalmente stiamo introducendo un po' una rubrica nuova nella nostra bellissima radio, no? Il nostro bellissimo programma, che è la ricetta, scusate, la rubrica delle ricette. Quindi oggi questa sera Frego, naturalmente ringraziandolo per l'ottima regia, no? Grazie, Frego, di nonno Frego. No, le ricette... avete sbagliato. No. Questa è la nonna Fragolina. Abbiamo le ricette di nonna Fragolina. Anna Fregolina, questa sera vi do un consiglio veramente squisito per preparare una buonissima pietanza ai vostri figli e ai vostri maritini. E la pietanza si chiama corona di risotto. Per 4 persone ci vogliono 300 g di riso, una cipolla, un bicchiere di vino bianco secco, 20 g di midollo di bue, 2 bustine di zafferano, 1,5 litri di brodo di carne sgrassato, 50 g di parmigiano reggiano, 300 g di fumi con porcini, 100 g di prosciutto cotto, prezzemolo tritato, 2 spicchi d'aglio, 40 g di burro, olio extravergine di oliva. Basta. Sale e pepe. Procedimento. Il procedimento è molto semplice e anche molto intuitivo, perché potrete trovare tutte le ricette su www.radiosandonà.it oppure nel nostro sito internet. La fame. Beh, posso incominciare oppure volete? Dai. Nonna Fregolina vi consiglia questo: tritate la cipolla e fatela passire con 20 g di burro e poco olio. Unite il midollo a pezzetti e il riso, fate tostare e bagnate con il vino. Lasciatelo evaporare e unite lo zafferano sciolto in poco brodo caldo. Mescolate e portate a cottura bagnando con mestoli di brodo bollente. Togliete il riso e poi incominciate a versare il tutto all'interno del vostro piatto. Semplicissima. Cotto e mangiato. E buon appetito. E soprattutto e soprattutto la vostra Fragolina, la nonna Fragolina, vi ritroverà la prossima settimana per dare dei consigli molto utili. Ma io direi più che altro la nonna di non sentirla più. La nonna Fregolina, direi. Grazie, grazie alla nostra nonna Fregolina, la nostra per la ricetta. Nonna Sfregolina. Fregolina, sfrigolate con poco burro, mi raccomando. Scusate, avevo un po' di reseguin. E queste sono le nostre coordinate, ragazzi. Dove scovarci? Questa è Radio Sandonà, la frequenza è 102.200. Il numero di telefono è 0421 56 0993. Mi sembra di essere Ligabue. Col 4 finale per il fax. Potete ascoltarci in web radio su www.radiosandona.it. DFD, no, una posso fare. DFD 360 @yahoo.it. La nostra email per gli sms 348 41 61 771 771. One. Per il Facebook DFD Team 360 DFD Team, in parole in mo. And if it was over, maybe it was for the better. I was thinking I'd be alright till I thought it all through. Fra poco, mi raccomando. Oh, boy, you. Oh, boy, you. DFD. giovedì, il giovedì. Non cercano un trofeo, ma trasformano il rodeo. Il ogni prato libero ha da stare. Insieme notte e giorno, e succede il primo. Prema lo sceriffo più ad il GFD. La vita è una tranquilla nel profondo su, attenti a fare i conti insieme a fuori. Su quanti con un forno poi incontrerà, vedrete cosa vi dirà. Il GFD. Cari amici ascoltatori, questa è Radio San Donà, 200, questa è 360, l'informazione divertita. Ben ritrovati cari amici, dopo l'intervallo di consigli per gli acquisti. Ci ritroviamo a parlare come di consueto a parlare della rubrica settimanale dedicata ai telefilm dei mitici anni 80, ragazzi. E come avrete potuto sentire dalla nostra sigla, dalla nostra base, dalla nostra canzoncina, che era la sigla di Hazard, che per di più è conosciuto come Boeuf. Non sta azzardarte, non sta azzardarte. Oh, ma hai visto la puntata di Boeuf? Ti ricordi, da bambini si diceva, hai visto la puntata di Boeuf? Sei perso l'ultimo. Sono mica io. Non t'azzardare. Ma che poi quante varie forme ci sono di tipo Bob Yuk anche con la U, cioè con la IUK, Boeuk. Che in effetti si chiama. Si chiama Hazard, il telefilm. Esatto, sì, esatto, il titolo, esatto, del telefilm è Hazard, dal quale è stato tratto anche un film, è stato fatto non più recentemente, ormai insomma era, cos'era? Nel 2000 e qualcosa, questo non lo sappiamo. Vi ricordate comunque la storia insomma di questi due cugini, i cugini Duke, lo sceriffo, il boss hot dog, ve lo ricordate? Boss hot dog. Bello, bello. Il cane caldo. E soprattutto lo sceriffo, quello stupidissimo Roscoe Picoltrain, lo ricordate? Io mi ricordo le grandissime importazioni di whisky che c'erano. Sì, sì, esatto, tutti i traffici, no, più o meno legali. Io mi ricordo le montate in macchina. Quella là è bellissima, gli inseguimenti, poi quando si tamponavano. I classici bellissima. Incidenti con... Sì, con l'auto che si piega, si gira. Il cane, come si chiamava il cane? Il cane non sono riuscito... Rusty. La rete purtroppo non è stata in grado di fornire questa informazione. Comunque interessante sapere questo. Poi c'era anche lo zio Jesse, vi ricordate? Poi sicuramente il generale lì, la mitica Dodge Charger del 69, ribattezzata appunto dai cugini Duke, il generale lì. Ma che fine hanno fatto? Purtroppo due personaggi, lo zio Jesse e il boss Hog, sono venuti a mancare. Povero, pace all'anima loro. Mentre i due protagonisti, i cugini, pace all'anima loro. E che devo dire? Ecco, i cugini, uno non fa più niente e l'altro invece è stato il papà di Clark Kent sulla serie televisiva Smallville. Mentre la cugina Daisy Duke non fa assolutamente un... Non si fa niente. Cioè sta a casa con la bambina. Mentre ha fatto carriera anche lui. L'interprete di Roscoe Picoltrain è un arzillo ottantenne che si dedica alla sua casa di produzione, la Best Friend Films. Mi ricordo ancora dei vecchi tempi, diciamo, del Klondike, dove diciamo, c'erano... Si è dato all'ippica. Cioè quello del vecchio Tamar. Vi ricordate, ragazzi, quella volta che eravamo nel Kentucky? Ricordate la mia vecchia casetta? Che ancora eravamo, che prendevamo le bombe e le facevamo scoppiare le caverne alla ricerca dell'oro. E all'oro, la febbre dell'oro. La febbre del sabato sera. Tu tieni la febbre. Oh, wow, oh, wow, news, oh, DFD, dresses Sandra. Quello che è il volume del coso, lascia stare, non toccare, non toccare il volume. Niente, è impossibile, è impossibile. È impossibile. Hai sempre tradito te stesso. E con gran meschinità, proprio in quei momenti in cui avevi più bisogno di quel tipo di coraggio che non si può chiedere ad altri né fingere. Ma anche questa è un'interpretazione, benevola forse, perché spesso non si è trattato affatto di coraggio, ma di lasciare che i tuoi impulsi si liberassero. Hai giocato con loro come il gatto con il topo e con il medesimo fine. Nell'eroismo, nella scelta, nel coraggio del... Dennis? Che un attimo. Dennis? Cosa? C'è che uno è? Che ti vuole. Che c'è? Non so che vuole. Il buongiorno si vede dal mattino. E infatti io sto caricando il letame. Ah. E quindi? Poi trasporto il letame. Bene. Quindi? Poi spargo il letame. Ok. Praticamente una giornata di merda. Il buongiorno si vede dal mattino. Hai capito che cos'è? Questo è quello che tu ci conduci ogni giorno, capisci? Cioè, colpa mia se voi avete una giornata. Tu me la fai finire così la giornata. Ho capito. Tu me la fai finire così ogni giorno. Purtroppo è così, purtroppo è la vita. È la vita e purtroppo. Ma che volete voi? Ma che volete da me? Ma questo qua è il momento dedicato alla lettura. Alla lettura. Si dice sempre che in Italia si legge poco. E io invito i nostri cari amici che ci seguono da casa a non leggere i libri di Dani. Esattamente. No, ma leggete, leggete, che è bello, importante leggere. È importantissimo. Due rampe nell'abisso. Ma che cazzo. Perché ricordatevi comunque, cari amici ascoltatori, che la vita è comunque bella anche se c'è Diego e Dennis. Perché no. la vita è bella. C'è chi soffre soltanto d'amore, chi continua a sbagliare il rigore. C'è chi un giorno invece ha sofferto e allora ha detto io parto. Sempre ammesso che parto, ciao! A chi sbaglia a fare le strisce, ciao! A chi invece avvelena le pissie, uno tira soltanto di destro, l'altro invece ci ha avuto un sinistro, e c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? Finestra, e c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? Ciao! A chi sente soltanto la radio e poi sbaglia ad andare allo stadio. La Madonna, la vita sarebbe bella, sì, ma sarebbe ancora più bella se non ci fosse Diego, se non ci fosse neanche Fredo, che non mi fa fare la festa qui. Sai cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Ci diamo allo striptease. Striptease. Allo striptease. Sì. Perché in Norvegia chi fa lo striptease non paga l'IVA. Eccala, vedi, in questi tempi in cui si parla tanto di... in cui si parla di, cioè, le tasse, tutti si lamentano. Noi abbiamo sbagliato tutto. La radio, cos'è la radio? Tu potresti fare striptease con il tuo corpo statuario, con questa bellezza. Un po' mediterranea, un po' nordica, che sei un misto di tutto cosa. Tu che io non posso fare striptease? Certo, ma infatti voi due, cioè io vi vedrei bene. Tiene delle posso belle farvi, posso farvi da manager io. Fatemi leggere questa. Allora, gli spogliarelli, secondo un tribunale norvegese, sono una forma d'arte. E per questo motivo i locali che li offrono come spettacolo ai propri clienti non sono tenuti a pagare l'IVA. Così, visto il notevole sgravio fiscale, lo striptease potrebbe venire incrementato nel club notturni di Oslo e dintorni. Sempre detto che sono avanti i nordici, sempre detto. Ascoltiamoci un po' di musica nordica. Nordica, vai! I giovani del pappagallo becco forte hanno un becco di colore chiaro, che si scurisce quando invecchiano. Questa specie si nutre di semi di conifere, bacche di ginepro e ghiande. Si riunisce in stormi nomadi, formati da 6 a centinaia di esemplari. L'ara giacinto è la specie di maggiori dimensioni fra i pappagalli. La sua popolazione è diminuita a causa del traffico di animali e della caccia. L'uccello più grande. Mangia i frutti di poche palme, direttamente sugli alberi o a terra. L'ara rossa e gialla. Quest'uccello dai brillanti colori fa il nido nelle grandi cavità degli alberi della foresta. fallido, fallido. Mangia frutta e noci, nettare e fiori. Avevo capito che a Dennis piacevano gli uccelli, A volte ingerisce argilla per facilitare la digestione delle aggressive sostanze chimiche contenute nella frutta acerba. Che fa di quelli di quelle che cos'è che fa? Di quelle cose, di quelle deiezioni solide. Ma cosa volevi dire, Diego? No, insisti, continua, ero interessato. Ok. Vai. La maggior parte dei pappagalli fa il nido in tronchi cavi o in strutture naturali come i termitai. I conuri della Patagonia invece scavano tane profonde sugli argini dei fiumi. Vedi quello che faccio? Io abbasso il volume. O sulle scogliere oceaniche. Poi metto la canzone. Dove sono protetti dai. Facciamo in modo che i nostri amici a casa capiscano che io adesso abbasso questo parrocchetto di Dennis e introduco la prossima canzone che è di un DJ famoso tedesco. Oltre che nei savani, boschi e palmetti. A differenza di altre specie della prima famiglia, basso Dennis alleva i piccoli in colonia. Cara, via, va. Via, via. Vedi, okay. Vedi che la tecnologia ci aiuta. È una meraviglia, finalmente, va. Beh, allora ascoltiamoci un po' di Mix DJ, perché ora è il momento del Mix Time. DJ Smalley! E Ciao ragazzi, bentornati, questa è Radio San Donà e questo è il nostro Ciao. Programma 360, l'informazione divertita. Non so perché l'abbiamo chiamato così, ma non importa, va bene lo stesso. Beh, 360 perché comunque perché mettiamo musica a 360 gradi, no? Formazione perché non informiamo. Esatto. Informazione perché siamo informi. Esatto. Divertita perché non so se facciamo ridere voi, ma noi qui ci divertiamo come un dei pazzi, no? Ci divertiamo veramente e un sacco. Quello è vero, Io sì. conosco un amico che si mette a piangere. Anzi, no, infatti, no, io mi metto a piangere. È vero. Quando conosci Diego ti metti a piangere. Comunque, la cosa bella è che vogliamo ribadire che questo programma non serve a niente. Esatto. Quindi, bentornati tutti quanti. Vedo che siete in tanti. Voi dite, come faccio a vedervi? Non vi preoccupate, che io vedo il Grande Fratello, vi vedo un po' dappertutto. Avete capito? E niente, questo per ricordarvi che potete trovarci su Facebook del l'indirizzo, come si chiama il nome? Allora, si chiama il DFD Team 360, scritto in parole. DFT 360, mi raccomando. DFT360@yahoo.it la mail per poterci scrivere scriverci quello che vi pare passa per la testa. E poi come vedete nei sottotitoli per gli SMS 348-4162-771. Cari amici del DFD, come di consueto, sempre di giovedì, su Radio San Donà, sempre ad alta voce, noi diciamo, un modo per capire, per capirsi, forse anche per capirci. Quando un giorno, vista l'ora, è appena finito, un nuovo giorno è appena cominciato, un giorno in più per amare, sognare e per vivere. Buonanotte. E adesso che ti voglio bene, io ti perdo. Bene, è tutto anche per oggi. Ora me ne vado fuori dai coglioni. Ancora, perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te. E non me ne frega niente senza te. Anche se incontrassi un angelo, direi, non mi fai volare in alto quanto lei. Io ho scoperto che tu non sei né figlio di emigrante né figlio di preta pura. Tu sei proprio figlio di puttana, nato. Claro. Andiamo, va.